La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. L'articolo 34 completa il diritto allo studio. Lo completa in quanto l'articolo 33 pone la struttura scolastica, libera, obbligatoria, autonoma, ma l'articolo 34 riconosce il diritto all'accesso alla struttura scolastica stessa. E anche qui il costituente è limpidissimo. La scuola è aperta a tutti, a prescindere da qualsiasi condizione personale, sociale, di cittadinanza. Tutti possono accedere alla scuola. E l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, quindi l'obbligo scolastico minimo, è obbligatoria e gratuita. Anche qui ovviamente siamo di fronte a una grande apertura storica, perché lo Stato ha fra i suoi scopi quello di far studiare tutte le persone e consentire a tutti un buon grado di cultura di base. Il terzo comma, infatti, riguarda l'accesso ai gradi più alti degli studi. E qui il tono delle parole costituzionali è ben diverso, perché i gradi più alti degli studi non sono più aperti a tutti, ma ai capaci e ai meritevoli. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti. Il costituente in questo è ampiamente meritocratico. Ovviamente una meritocrazia non basata sul reddito, sul censo, ma sulla capacità. E infatti l'ultimo comma pone borse di studio, assegni alle famiglie, provvidenze per accedere alle scuole ai gradi più alti, con un importantissimo principio, che devono essere attribuite per concorso. Anche qui la Costituzione è limpida e meritocratica e apre a tutti la possibilità di accedere e di crescere nell'ambito di una società nella quale l'eguaglianza è il valore di fondo. Ma un'eguaglianza non solo formale, ma soprattutto un'eguaglianza sostanziale, per consentire a tutti di arrivare a partecipare pienamente allo Stato, anche mediante gli studi, capaci e meritevoli.